Quarta stazione. Incontro di Gesù con sua madre. Chi, Signore, vedendoti così piangente, oserebbe chiedere perché piangi? Né la terra, né il mare, né tutto il firmamento potrebbero servire come termine di paragone per il tuo dolore. Madre mia, dammi almeno un poco di questo dolore. Dammi la grazia di piangere Gesù con le lacrime di una compunzione sincera e profonda. Hai sofferto unita a Gesù. Dammi la grazia di soffrire con te e con Lui. Il tuo dolore più grande non è derivato dal contemplare le indicibili sofferenze del corpo del tuo divin figlio. Che cosa sono i mali del corpo in confronto con quelli dell'anima? Magari Gesù avesse sofferto tutti quei tormenti, ma accanto a lui vi fossero stati cuori compassionevoli. Magari l'odio più stupido, più ingiusto, più sciocco non avesse ferito il sacro cuore enormemente più di quanto il peso della croce e i cattivi trattamenti ferivano il corpo del nostro Signore. Ma la manifestazione tumultuosa dell'odio e dell'ingratitudine di quanti lui aveva amato. A due passi stava un leproso che aveva curato. Più lontano un cieco a cui aveva restituito la vista. Poco oltre un sofferente a cui aveva reso la pace. E tutti chiedevano la sua morte. Tutti lo odiavano, tutti lo ingiuriavano. Tutto questo faceva soffrire Gesù enormemente di più degli indicibili dolori che pesavano sul suo corpo. E vi era di peggio, vi era il peggiore dei mali, vi era il peccato dichiarato, il peccato prorompente, il peccato atroce. Magari tutte quelle manifestazioni di ingratitudine fossero state dirette contro il migliore degli uomini, ma per assurdo non avessero offeso Dio, ma erano dirette all'uomo Dio e costituivano un peccato sommo contro la Santissima Trinità tutta. Ecco lì il male più grande dell'ingiustizia e dell'ingratitudine. Questo male non consiste tanto nel ferire i diritti del benefattore, ma nell'offendere Dio. E di tante e tante cause di dolore, quella che vi faceva soffrire maggiormente, Madre Santissima, Divino Redentore, era certamente il peccato. E io? Mi ricordo dei miei peccati? Per esempio, mi ricordo del mio primo peccato o del mio peccato più recente? Dell'ora in cui l'ho commesso, del luogo, delle persone che mi circondavano, dei motivi che mi hanno portato a peccare? Se avessi pensato a tutta l'offesa che ti porta un peccato, avrei osato disobbedirti, Signore. Madre mia, per il dolore del santo incontro, ottienimi la grazia di aver sempre davanti agli occhi Gesù sofferente e piegato, proprio come l'hai visto in questo momento della passione.